un caloroso saluto a tutti gli amici ascoltatori che ci seguono in questo momento. Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Sbrand Fam, sulle frequenze di 101.47.23. Una puntata piena di emozioni e vibrazioni questa notte. Qui è il vostro Nick Jane che vi parla come sempre, ma partiamo subito con il primo brano. Torniamo indietro nell'America degli anni 60, 70, l'epoca dei figli di fiori, dell'amore, delle droghe, alle droghe. Un artista folk, pop, ma anche un po' rock. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. It's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through. Man in me. Che ci porta nell'America di quegli anni pieni di rivoluzione, vibrazioni, quelle chitarre maledette, quelle voci che... Ma ci chiamo dalla regia, abbiamo una chiamata in linea, via con la prima chiamata. Pronto? Nick Jane? Ciao! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Baccolo. Da dove chiami, Baccolo? Chiamo da Roma. Roma. Ostia. Roma. Va bene. Sicuro, va. Oh, tranquillo, ti capiamo. Volevo farti prima di tutto i complimenti. Grazie, grazie mille, radio, Baccolo. Bella. E poi... volevo farti una richiesta, se mi mettevi un brano. Ma certo. Che voglio dedicare alla mia ragazza. Per favore, dici, Baccolo, qual è il tema? Niente, volevo dedicare la canzone di Joe Cocker. Little Help from My Friend. Bellissimo. Grazie, brano. Grazie mille, Nick Jane. Niente, caro Baccolo. Allora, dalla regia, via col tema di Joe Cocker, Little Help from a Friend, tratto dal concerto di Woodstock. Tanto amore, tante droghe, ma soprattutto tanto rock and roll. Ragazzi, ma che cazzo era sto qua? Oh, nella regia, per favore, facciamo le chiamate, perché poi ci chiamano i coglioni, cazzino, ma si battono, per favore, due attenzioni, vai col tempo. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I have a little help from my pain? All I need is my brother. I have a little help from my pain. I say I'm gonna get high. Tell don't it say it no more. Gonna get out of my friend. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Oh, Che emozione, ragazzi, che emozione, che voce, una voce profonda, penetrante, che ti entra dentro. Ma non faccio a meno di farmi una piccola domanda: quanti di voi piccoli mattacchioni avete chiamato il vostro piccolo Cocker Joe? Ma torniamo a noi, amici, al nostro programma. Andiamo a leggere le mail dei nostri spettatori. Ci scrive Annunziata Dalicata: caro Nick James, ho 22 anni, mi sono appena lasciato col ragazzo dopo 3 anni di relazione. Sono triste, depressa, tutto il giorno a piangere da solo nella mia cameretta. Per favore, Nick James, pensaci tu, mettimi un pezzo forte, molto forte. Annunziata, Annunziata, ah, l'amore, l'amore. Ah, è l'amore, l'amore, ma chi capisce veramente l'amore? Annunziata, Annunziata, il prossimo brano lo dedichiamo a te, un brano forte, rock, molto rock. Un artista maledetto, di quelle chitarre stridenti che entrano nelle vene. Jimi Hendrix per te, per la tua desolazione, per la tua depressione, Annunziata. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the Axis. My red is so confident he flashes trophies of war. And ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a, yeah, I'm bold as love. Yeah, yeah. I'm bold as love. Just ask the Axis. He knows everything. We'll be right back. Oh Jimmy, Jimmy, Jimmy, che orgasmo tantrico, la tua musica, la tua chitarra. Oh Jimmy, i tuoi viaggi, i tuoi LSD e la tua marijuana. Ma noi non rimane che farci una sola domanda, una domanda semplice ma spontanea che circonda il mito di Jimmy. E ci chiediamo, sarà ancora vivo Jimmy? Sarà ancora vivo Jim Morrison? Marilyn Monroe? Buona Pozzi? Ma chissà, ci avviciniamo inesorabilmente verso la fine del nostro programma, un viaggio nella storia del rock, il rock and roll, l'America degli anni 60, 70, le rivoluzioni, i figli dei fiori, le droghe, le droghe. E ricordiamo a tutti gli amici ascoltatori che potrete scriverci alla nostra email randomradiofm@yahoo.com chiamare al numero 02 93 45 7. E per concludere ragazzi vi lascio con un brano fantastico, lo dedico a tutti voi che ci seguite numerosi ogni giorno. Summertime, Janis Joplin. nothing's gone too hard.